andrai, farfallone amorose, notte e giorno, di torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un filo d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un filo d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel mantiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quel pennacchino, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte giorno di forno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un filo d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un filo d'amor. Gran guerrieri, porta al pacco, gran mustacchi, stretto sacco, scoppo in spalla, sciapla il fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagni, per valloni, con le nevi e i foglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, dall'orecchio fa fischiar. Non ti avrai quel pennacchino, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante. Non ti avrai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un filo d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto ad un filo d'amor. Che rovino alla vittoria, alla gloria militare,